Io l'ho messa, ce l'avevo a 10, dici la verità. Adesso l'ho messa a 9, va bene così o l'abbasso ancora? No, abbasso intorno a 6, 7, vediamo. Guarda, così a 6 l'ho messa, va bene? Mi sembra che vada meglio. È bella forte. Vai Anto. No, così va benissimo. Va veramente bene, va. Ma dico Claudio, volevo dirti una cosa. Ma che te la stai usando? Ma io? Ehi, c'è bello forte il segnale. Sto usando la Smartech, la Gipo che è arrivata e l'ho montata il giorno che ha fatto bel tempo. Capo, ecco perché ti sento così bene. Io se avete dica, questa io ve l'ho detto. Se dovete comprare un'antenna per la 27, comprate questa, intanto costa 20 euro in più della Game Master. Però almeno c'è una 7 ottavi, non c'è una 5 ottavi, è un'antenna molto più performante. Infatti non l'avevo ancora usato col Galaxy. Il Galaxy mi sta dando esattamente, siamo in scala a 10 e batte, scala 100, mi sta dando 15 watt modulati 20 watt. Ma va bene, va bene. Infatti sei bello forte, sei qua. Non so come mi ricevi a me, però sento che è meglio dalla Mantova. Guarda, se tu sei liscio stai arrivando 9 più 15, con la Mantova mi arrivi 9 più 10. Fabrizio con la Mantova mi arriva 9,25 e con questa mi arriva 9 più 30. Già va bene, già va bene. Liscio sono, non c'ho niente di attaccato. A te riprendo io un attimino, così mi continuo a fare quel lavoro. Ascolta, volevo chiedere una cosa a Claudio veloce. Ma quella roba che avevo fatto, mi hai mandato, come sta andando? Bene? Non bene, di più. L'ho scollegato, adesso ero attaccato al Galaxy, ho detto questo Galaxy devo farlo un po' funzionare, perché altrimenti veramente va in tilde, capito? Benissimo Fabrizio, benissimo, alla grande. Anche lo Smith, la parte bassa era da toccare. Quello lì te l'avevo detto io, mi sono accorto, ma me ne sono accorto dopo che lo stavo usando. Ho dato un'occhiata più precisa, ho visto che come pigiavo la portante faceva boom e poi tornava indietro. Evidentemente non me ne accorgevo, quando guardavo era già a posto. Era pericoloso, capito? Mentre adesso invece, anche se ne dà un bel ancora, minchia Fabri, ne dà 150 una M. Ma infatti tu devi regolare, no, in quanto non dio il colpo. Ma il problema è che no, anche lo Smith, la regolazione dell'S8-9, la parte bassa non è che non riceveva, però non te lo segnava bene, o trattate. Il problema è che c'era ogni tanto. I componenti un po'. E io se c'è il mio, ho fatto il mio 440 che prima aveva lo zero perfetto, adesso non c'era più lo zero perfetto lo Smith. Quando lui apre per qualcosa gli faccio 90 lo zero anche al mio. E così è. Io proseguo. Lo sai, oramai c'è la mano su queste cose, praticamente succede che vanno ogni tanto aperte, date una taratura, però per poterle fare ci vuole chi lo sa fare e la strumentazione giusta, non è riuscire a tuccare lo smitter e regolare e fare, non si toccano queste cose. Va bene Fabri, fai, dai, io mi faccio due chiacchiere, le faccio scaldare un po' questo Saturn, ok, quindi Anto, confermi così, allora Mickey Gain è a manetta del Galaxy, eccolo qua, sì, a manettone, eccolo qui, Mickey Gain a manettone, e i watt sono intorno, modulati sono quasi 20, 18 e l'importante sono 15. E il microfono c'ho, i toni a 1 e il Mickey Gain del microfono a 7, va bene? Va bene, va bene, cavolo. Sei bello forte, sei qua, Ti aspetta. Va bene, tu. Bello forte, tieni conto che la mia posizione già è buona, anche se sono nella vallata, però è molto alta. L'antenna quest'estate la tiro più su, perché adesso è 4 metri, 2 attaccati al palo e 2 su. Non è che serva molto, però voglio provare a tirarla su di altri due elementi e vedere cosa succede. Se va meglio la lascio così, se è uguale la rimetto com'era, capito? Almeno meno problemi. tiravo quella la carbonata e tirava forte, sarebbe, avrebbe tirato un bel forte. No, Antonio, la carbonata non poteva montare un'antenna leggera, ma stai scherzando, 2,50 m di antenna, 45 metri di altezza, no? Questa è un'antenna che lavora a terra anche, antenna a terra va benissimo, 2 metri è sollevata da terra, capito? Perché se tu consideri un palo da 2 metri, un elemento è attaccato al muro, l'altro elemento esce, sono 2 metri che sta lavorando, però l'antenna è, può lavorare anche così, se metti una mantova a questi livelli no, noi non andiamo a lupo, questa è fatta apposta. Quindi la posso lasciare così sino a tutto l'inverno e poi d'estate posso fare la prova a tirarla su. Allora, allora vediamo, se migliora qualcosa va bene, se invece è uguale preferisco metterla com'era, capito? Ecco, cosa c'entra? Le mette il palo più cosa e non succede nulla. Cioè non succedeva niente, dico, però facendo la prova a Carbonazzi secondo me sarebbe andata fortissimo. Io parlo di prova, a me non parlo di lasciarcela. La prova gliela faccio anche qua, non è, sono più alto di Carbonazzi anche come livello, non è quello il problema. Questa di apertura già ne ha, non è che non ne ha di apertura, posso farla anche qua, però vi ripeto, adesso col tempo brutto non lo posso fare una cosa del genere, la posso fare a tempo bello, capito? Va bene, quindi segnale buono, la radio buona, questo Galaxy è sempre in ottima forma, beh, questo l'avevo preso da Danilo, ma nuovo, è sempre fermo, con la scusa che io uso il K, però adesso questi giorni voglio usare questo. Ma dico, ma è robusta come antenna, alla fin fine? Gli elementi, praticamente i diametri sono come quelli della mantova, non è che cambia molto. 7 kg pesa la mantova e 7 kg pesa questa, quindi no. Però questa è un po' più rinforzata perché sino a 2,50 m, quasi 3 metri, sono due antenne, una attaccata all'altra, capito? Ho capito ora, ho capito. Vediamo più là se mettermela una cosa del genere, però devo attaccare un muro in ovvio perché qua non va bene. Beh, Anto, potrebbe anche andare bene, bisogna vedere dove si sta fatto, perché ti ripeto, non è molto pesante l'antenna, però va messa bene, va messa bene, c'ha dei bei piattelli, c'ha belle staffe, bell'ancoraggio, è fatta molto molto bene, però ti ripeto, bisogna montarla bene, le antenne vanno montate bene, KK, comunque. Mi ha confermato che sta andando tutto bene, quindi tutto. Scappa, no, va bene, sono contento. Non sono contento, cavolo. Arrivo forte e bene. Sono curioso, cavolo, mettendola qua come di cosa fate. Già esce un po' così, immaginiamoci. Si attacchi chi sa vecchia, cazzo, Giulia. Guarda, tu stai usando il 440 intanto, no? Quindi è abbastanza precisa quella radio perché so che è precisa di Smitter. Non ho dubbi. Il segnale mio adesso quant'è? Poi ti commuto con la mantova. Il segnale mio quant'è? 9,15, sì. 9 più 15, guarda, adesso ti commuto la mantova, guarda. Vai. Già commutato. Quanto è adesso il segnale? Calato? 6, 9, qualcosa. A cara segnale. Con commutatore, qua c'è l'antenna diretta, commutatore a 2. Mantova, c'è il Galaxy e il 430. Sto usando sempre la stessa radio. Quindi vedi bene se c'è la differenza. Adesso ricommuto con l'altra antenna, guarda. Cazzo, allora, c'è la differenza. Adesso c'è l'altra antenna. È così, no? Ma io le prove le ho già fatte, ma poi aumenta il segnale vostro, capito? Cioè, almeno di 5 punti S aumentate tutti. Poi le prove le ho fatte anche a lunga distanza. A lunga distanza, c'è un abisso, ma perché? Non dico che la mantova è a 6 metri d'altezza, questa è a 2 metri d'altezza, ma la mantova è a 5 ottavi, questa è a 7 ottavi, quindi ha più guadagno e più resa, tutto qua. se non sarebbe così, non avrebbe senso. E beh, se aveva lo stesso guadagno della Mantova, tanto vale, gli ho preso 200 euro, cosa ne fa? Scusami, a un certo punto non serve a niente, come dici tu, è così, vabbè. Stazionaria, scusi Anto un attimo, che allora, che non ho controllato la stazionaria, una stabilizzaria, allora. 0,8, neanche 1, 0,8. È buono. E beh, 0,80, neanche 1 di stazionario. Va bene. Va bene, no, non bene, no, di più, vabbè, ok, dai, comunque già ottimo per la truppa. Cavolo, non ce n'è tante di quelle antenne così, forse, non penso che ne facciano altre marche. No, questa è fatta così. Allora, io ne ho fatto arrivare, già ne ho fatto consegnare da questo venditore perché si è appoggiato a me. Quindi il primo che me l'ha mandata sono io, dove appunto l'ho testata, l'ho montata, ho voluto farle un filmino, gliel'ho fatto, poi non so se ve l'ho modificata eccetera, mi pare che l'abbia messo anche su YouTube, e poi l'ho ordinata, che gliel'ho già consegnata a Carlo, che la deve montare in questi giorni. Poi ne ho consegnato due a Cagliari, due a Oristano, una ad Alghero, e poi gli altri sono tutte in partenza, Olbia, Tempio, boh. Ma tu immaginati che io l'altro giorno ero in banda amatoriale, in cui ho fatto i 40 metri, i 20 metri, i 15 e i 10 con questa antenna, a 9 più 20 sempre come segnale a livello locale, attenzione, a livello locale, con Gianfranco, con 1 e 1 di stazionarie, e non è un'antenna HF, attenzione, però risuona benissimo da tutte le parti. È buono, ma se risuona va bene, cavolo. È buona, cavolo. E vabbè, a livello locale Antolo puoi anche fare, ma se ti metti a chiamare non ti sente nessuno. Ci vogliono le antenne giuste, capito? Per fare tutte le cose ci vogliono le antenne sue. Questa era solo una prova, l'abbiamo fatta con Gianfranco e ti dico che veramente è performante, ma non avevo dubbi, lo sapevo già. Ma lui ce l'ha Gianfranco, no? No, Gianfranco c'ha la Game Master. Capito, tanto che non se l'abbia messa pure lui. Ha detto magari più avanti. Chiappa. Ci sto pensando. Io l'ho detto, poi ripeto, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Io non la conoscevo neanche questa antenna, me l'hanno andata a provare, e provandola mi sono accorto che ne vale la pena averla. Se è molta durata negli anni va bene. Non lo so, io ti ripeto, l'ho montata da poco e quindi per il momento proviamo, poi la durata che avrà sarà da vedere, non lo so, però è abbastanza robusta come antenna, fatta molto molto bene, tutte la bulloneria, le viti, le piastre, tutto un acciaio inossidabile, quindi gli elementi sono abbastanza robusti, vediamo. Ah, sai che mi hanno detto che la cosa, la Superlam, dice che c'ha tutti i cosi in acciaio, c'ha la struttura. Ma non metto lingua, Superlam, che Superlam cos'è? Antenna. È un prototipo della Manta, ma non ha niente a che fare con la Manta. Eppure che l'ha montata mi ha detto che c'ha tutti le viti d'acciaio. Accidenti, può avere i viti d'acciaio, bisogna avere il materiale. Le viti d'acciaio, se vedi questa ti metti a piangere, tu c'ha tutte le piastre in acciaio, i cavallotti in acciaio, tutta la bulloneria in acciaio. L'alluminio è buono, è grosso, l'alluminio si vede che è strutturato bene. Poi ti ripeto, ma non mi interessa criticare le cose degli altri, ma io antenne così a quei prezzi non le coprirei mai, capito? Assolutamente. Va bene, va bene. Ho dice che anche alcuni pezzi sono fatti tutti da piastra di sotto, in acciaio, non lo so, non ce l'ho mai avuta e non lo so. Io c'ho questa, per il momento vedo che mi va bene, poi vediamo, quando mi rompe di cazzo, il mio te la rampo. Vabbè, se ti stai riferendo a quello che l'ha montata, il segnale è uguale, non ha cambiato assolutamente niente, invece come vedi, io cambiando antenna cambia anche il segnale, se io faccio un acquisto lo faccio per migliorare, non per avere le cose uguali, tutto qui, un buon interruttore, poche parole. Vabbè, comunque già, se andava, sicuramente sarà, io la Vicky Master me non piace, dico la verità. A me non è mai piaciuta per il prezzo che costa, è un'antenna che non vale a nulla, annuda un pezzo di dubbio, che come vedi te la puoi costruire tranquillamente, senza, con meno o meno spesa. Vai e costruisci questa tua, se ci riesci a costruirla così come ha fatto un professionista che conosco io, la può costruire, e no, perché c'hai macchinari per poterla fare, ma altri, fatti non parole, non tu, ci vogliono fatti non parole. Va bene, stazionari, controlliamo di nuovo, diretta. Eccolo qua, neanche uno. Benissimo, benissimo. Giusto, te l'appoggio, ma non approvo. Ah, ma invece appoggiarla a me, appoggiarla a Antonio. Ah, ma non appoggiarla nulla. No, la che è un'eccellente antenna, non è un'antenna che non vale niente. Non vale niente per chi non la sa installare. È più complicata della J-Pol sicuramente, perché c'è un sistema particolare, non è solo un dipolo, ma se ci guardi bene la configurazione è molto precisa. La J-Pol c'ha il vantaggio, diciamo così, il vantaggio è a seconda delle situazioni, che è un'antenna molto semplice, perché la struttura l'hai vista, è la solita U tipica anche delle Zeppelin, da cui anche l'associazione con quelle che usavano nei dirigibili, però è molto lunga, quindi al topo adesso ci sono sia quella lì e sia la Game Master, che può essere in secondo o a parità, dipende dall'installazione. Tutto lì, è molto, ti tieni presente che quell'antenna che c'è tu è stata calibrata al punto giusto, così come anche la Game Master, quindi con calcoli fortemente ingegneristici e computerizzati. Però l'acqua è più semplice, capito? È più pesante, quindi può dare più seccatura, eccetera, eccetera. E buonasera a tutti, comunque. Io lo so. Va bene, dimmi, sto usando il gas a Tonneco, come ti sto arrivando bene, Gianfra? No, non bene, benissimo. Non mi hai fatto spaventare, poi c'è la miseria, non bene, ma che cosa è successo? Cosa è successo? Benissimo, sia come radio come segnale, va bene. 15 watt, 18 modulati, il massimo della potenza di questa radio. Quando io non devo toccare volume, ad abbassare, alzare, come se fossi in una discoteca, allora va bene. E attualmente siete entrambi, sia tu sia Antonio, forti, senza bisogno di stare lì col volume a regolare la cosa. Tutto lì. Siete soliti tutti e due? C'era Fabrizio, però sta facendo cosa, quindi è in querix. Vai Antonio. Capa, sono soliti così. Capa. Comunque me l'hanno detto di questa Game Master anche a me, ma io non l'ho mai comprata. Perché non la volevo montare, mi tutto lì il discorso. Anto, ci sono antenne di centinaia di tipi, ognuno si deve scegliere quella che ti adatta per i propri scopi, tutto lì è il discorso. non è che per forza bisogna seguire il DPA a tutti i costi, dipende dall'utilizzo anche che se ne deve fare. A me serve un'antenna molto leggera perché io le cose le faccio da solo e soprattutto dove andare a una certa distanza per non disturbare le antenne principali che sono per altre frequenze. Poi va bene, ho subito tanto, ma tanto di quel vento che non è idea, tempeste, fulmini, di tutto si è appeso. E lì attualmente se ne sta bella covacciata, ma su un traliccio, diciamo che non so, adesso non ricordo, forse di 6 metri, sì, circa 6 metri più relativo tubo di altri 6, quindi sa 12 metri d'altezza. Capa, ma finché va questa, lascio questa qua, la mia Ringo, e sono a luci, che funziona. Se funziona lascia stare, cosa stai lì a buttare via soldi, poi succede come a noi poco fa, vero che ne entra tutti, anche dopo non deve entrare e te ne passa la gana. Quello l'hanno sempre fatto, Gianfranco, lo sai, l'hanno sempre fatto, a venire a rompere le scatole in banda amatoriale, però io non avviso più a nessuno, a me non me ne frega più niente, ognuno si assume le sue responsabilità e si arrangia. Sono convinto che l'asino vola, facciamolo volare, poi vediamo un po', avanti a tu riprendi. E cosa è successo? Niente, soliti idioti, non soliti gnotti, diciamo soliti idioti, che io, Gianfranco e Roberto eravamo in banda amatoriale in UHF ed è entrato qualcuno a fischiare, a rompere le palle, tutto lì, capito? Pensano che noi lo diciamo perché siamo superiori agli altri, lo diciamo per il bene di chi disturba, poi ripeto, ognuno si assume le proprie responsabilità, me ne fotte sei a me basta che non mi spremano le balle, perché se me le spremano a me personalmente allora divento cattivo come i vecchi tempi, siccome a me non me ne fotti più nulla, che si arrangino, facciano quello che vogliono. Pigliere il baroguru erano sicuramente. Pigliere un po' quei begli appaloguru perché rimangono loro presi per il culo a un certo punto, capito? Stavano fischiando, stavano rompendo le scatole, ma qualche secondo e qualche minuto, niente di che. Perché poi basta sempre che uno si organizzi, non è come la 27, quindi buon intenditore, poche parole. Vai Gianfra. È così, l'UHF e poi è il peggio del peggio per fare quei giochi, perché essendo fortemente utica riescono anche con una direttiva rudimentale ad acchiapparti, li usano soprattutto anche per vedere i voli dei cosi, dei volatili o rintracciare gli animali, no? Con quei sistemi lì hanno un'antennina direttiva e vedono subito dove stanno andando e dove non stanno andando. Ma è da imbecilli poi fare queste cose, dai. E comunque non era certo un LPD. Ecco, tra parentesi. Comunque, farà anche questo la fine di quelli che andavano in 45, che stanno ancora piangendo. Infatti se deve tu controllo adesso è tutto libero. L'ignoranza non è una brutta cosa. Perché nelle PD usano i portati. Io lasciamo perdere la tratta, non me la futtino da Gianfra. Voglio vivere sereno. Ma già lo sanno loro cosa usano. Non c'è di uno che ha l'antenna interna, sono tutti con l'antenna esterna, quindi è chiaro che ti disturbano. Se avessero avuto i portatili normali non avrebbero disturbato niente. Quindi. Va bene, avanti ancora, chiudiamo il discorso che non me ne ha fatti nulla, anzi vi lascio che mi chiudo questa radio che l'ho aperta a darle una soffiatina, c'era anche un po' di polvere dentro. E va veramente molto bene, dai, ok. Vai Antonio, si è allontanato. Si è allontanato un attimo, vai, già fammi allontano anch'io, ma sono qua comunque. sono in sala radio che mi metto il tappo a questo garage che sta volando una soffiatina con la bomboletta. C'era un pochino di polvere, ok? Già sono qua. Vuoi confermare, George? Vediamo, perché stavo facendo cosa sarà, non capivo cosa è. Ok, ce la risentiamo. Ciao, ciao. Non lo fare su? Allora, sta troppo qua, Ma rimani o stai andando via? Interrogativo. No, rimango. Perché non si capitolano bene. Niente, è così. E quindi tutto bene anche oggi? Mangiato? Sì. Più che altro sono stato molto a letto oggi. Già fa bene, dato che ti alzi presto anche tu. Dopo io me ne esco, ando a un karaoke. Fai bene, se ti piace fai bene. Già mi piace, già a me. Mi piace molto cantare. Ho preso la passione, ho preso. Ma canti tutto o tutti i generi, oppure che ne so, canti in sardo o canzoni anni 60, 70? No, canto anche canzoni di adesso, canto di Celentano. Canto tante canzoni. Insomma, c'è un repertorio vasto, dai. Gamba. Mi arrangio, Vasco Rossi, ne faccio di cose. Sai, mi trovo che su pochi modo cantende. E chi è? Mamma mia! Tu canti anche quelle canzoni, quelle dei cosi lì, come si chiamano, quei ragazzi, gli Skinizer, gli Skenazer, le Skenate, quello lì. Ho capito, sono fuori di testa. E anche quella canti. A me mi piace Passello Bianco come canzone, mi piace. Ma quando sei incavolato quella là, sono fuori di testa, va bene? Ma poi tu ne ha fatto un'altra, sono fuori di gabù, da così. Ui. Vabbè, l'importante è divertirsi, dai. Anche se, mi sa che anche stasera il tempo è così, non è proprio bello, anzi non è affatto bello. Cappa. Questa qui mi piace a me. Avanti sai, bisogna lasciar perdere. La conosci? Diciamo che non me la ricordo, l'ho sentita altre volte, ma però non me la ricordo. Si chiama Passello Bianco, si chiama. La sto imparando come canzone, piano piano. Ovvio, piano piano soprattutto. E Celentano, a ti piace? Non ho capito, tu? A ti piace Celentano? Sì. Celentano va bene, quelle... anche le ultime che lo abbia fatto in collaborazione con Mina, e poi vabbè, con le antiche dipende da alcune sì, alcune no, sai, non tutte le canzoni riescono bene. A me piace molto quella, l'emozione non ha voce. Grazie, ma quella è facile, a chi non piace. C'era qualcuno che voleva entrare, ho sentito una specie di bip lontano. Avanti che vuole entrare? Beh, chi è? Non si sente niente. Quella in dialetto, adesso stanno andando queste napoletane, queste stanno andando tanti telefilm, e quindi stanno spopolando quelle. Chissà, bella bionda, andrende. Anche quelle che cantano questa, aspetta, non so se si senta. No, non si sente. Già sono adesso canzone, però a me mi piacciono i Kiddi, cioè mi piace Nelsone di Albano, Celentano, le canzoni di Celentano, di tanto ne canto, già Nannini mi piace, America, mi piace, le canto pure. La musica è tutta bella, ce ne sono tantissime di musiche, di musiche belle e di canzoni, ci sono canzoni, c'è musica, insomma la musica è una grande attrazione. Gianni Morandi. Sì, ma non ne siamo pieni di cantanti. Aspetta, forse ti faccio ascoltare quella che dicevo, se ci riesco, perché a volte me ne dimentico come funziona sta cosa. E poi ci sono anche quelle Sassarisi, ma vabbè, quelli lì sono un po' particolari. La Sassarisa? Sì. Ti mando quella che dicevo, quella di quei film, dei telefilm che danno ogni tanto, senti, che genere è. Ciao, buonasera a tutti. Perché ti sentiva male? No, ho sento musica, cosa sta succedendo? No, con Antonio stiamo parlando dei vari generi che ci sono in giro. Non ho fatto ascolto, un secondino, acceso in questo momento. Ho sentito adesso a te, Antonio e Claudio, mi sembra. Credo di sì. Avanti Claudio, che hai detto un attimo? Claudio, tu eri. Vabbè, riprendete voi, dai, chi tocca? Antonio, vai a te. Ciao, chi si è detto la canzone di Gianni Morandi? Uno su mille. Ce la fa, già la conosco, bella canzone. Ok, vai Gianfra. Ce ne sono tante. Anche se noi oramai iniziamo a essere vecchietti, quindi rimaniamo un po' legati alle vecchie canzoni. No, Gianfranco ascolta Achille Lauro. E gare. Chi c'è mezzo baragnosa? Poi fuori di testa che era andato a Sanremo tutto tatuato da testa ai piedi, vestito da la ballerina di Gozo, un'altra classica. Questa sicuramente, vedi, questa è dei nostri tempi, te la mando se riesco a capire com'è. Vediamo un po' se funziona. Cos'è? No, aspetta, forse è arrivata. Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a te. Questa qua ti va bene, Antu? È bella la canzone mia. L'ha cantata anche Lucio Dalla. Tu che sei un adiofilo, Robè, com'era dal punto di vista qualitativo? Ma le registrazioni parli? Sì, sì, no, come riproduzione. No, no, assolutamente, per essere analogici, assolutamente di qualità, perché gli strumenti erano veri, non erano sintetizzati. La porcheria di adesso, su Bari c'è una registrazione digitale senza, diciamo, normalmente, diciamo, non sempre, pulita, esente da frusci e altre imperfezioni e cose. Però è tutto sintetizzato, raramente trovi gli strumentisti che suonano al vero, è tutto a computer. Il piano non è più piano, le chitarre non sono più chitarre, qualche volta mi puoi trovarle, ormai è tutto sintetizzato, la bellezza di quelle canzoni, anche essendo in analogico, la qualità degli strumenti è eccezionale, poi con tutti i limiti dell'analogico. Però io mi riferivo alla qualità della mia trasmissione, c'era la stessa, c'era piena di rumoracci, di cricchercrati, insomma di quelle cose lì. No, assolutamente, per essere una qua in AM andavi alla grande, pulita, perfetta. Anche per te, Antu, la riproduzione com'era? Udibile? Buona. Mi serve sempre questa opinione per capire se non è un sistema fatto per fare quel lavoro, sta per fare altri lavori. Però il fatto che funzioni anche in AM insomma, è positivo, ecco. Tutto lì. Assolutamente pulita, infatti l'hai anche ascoltata col cellulare, cioè normalmente quando senti le canzoni la metti su giù il cellulare attaccata al microfono e senti altri, è pulito, neutro, senza, non c'era niente, l'ambiente non si sentiva. Molto bene, sempre si fanno tentativi, esperimenti e tricatracche. Track ballacco, ma mi è sembrato un attimino di sentire Claudio, ho sentito che qualcuno ha detto un attimo quando c'era la canzone, era Claudio o chi era? Antonio? No, Claudio sta girando il coso, il cotechino. Ah, no, oggi c'era l'insalata russa, ha detto no, oggi mangio leggero, l'insalata russa, ha detto chiatta, è poco leggera. Ma da una si commenta. Ma Claudio, se vuoi invitare a pranzo conviene chiedere un mutuo, perché non conviene. Ma io dico la verità, non mangia tanto. Non è vero. No, io già mangio abbondantemente. Naturalmente tolta la carne, però se mi metti a mangiare tutto il resto, dalla pasta, antipasti e pesce, tutta la roba del mare, mi faccio a porco. Pure esagerato sono, infatti devo stare un po' attento. Capa. No. Non mangi assai, no. E già mangio, ma non è che mangio, non sono esagerato mangiando, capito? Adesso di buona porchetta, perché pure io cucino, quindi oggi aggiungo tre ravioli. Ecco, già si scende in alloggio, Anto, capito? Senta, Roberto. Dimmi, Anto. Roberto, Anto, se si scende in alloggio. Già lo sai, noi abbiamo pranzato assieme, io non sono un grande mangione. Va bene, no, sono qua, vabbè, sto facendo cose, mi sto pulendo il gas che era abbandonato e lo sto usando, Già va bene. Abbassa un po', pure troppo forte il ciclo. Troppo forte di che cosa? Di radio o di segnale? Segnale c'ho 15 watt, di portante 18 modulati, la potenza del Galaxy. No, forte di radio. Oh, e come mai questo Galaxy sta andando così forte di radio? La metto a 5, ce l'aveva a 6, va bene così. A orecchio mi sembra non è cambiato niente, comunque puoi lasciarla anche così, da. Ma va bene, la radio buona, bella. Sì, però è forte, un bel forte. Abbiamo regolato un poco fa, ho detto va bene, ma avete due sì, ho messo a 5 adesso ce l'ho a 4. Va bene? A me piace anche forte, la verità. Ehi dai, lascio così, mi sono rotto le palle, a me già lo sapete che la radio bassa non mi piace. tutto qua. Va bene, dai. Dunque, il segnale già è buono, Romeo. Già lo credo, 9.35 e segua. Ehi, va bene allora, non c'è problema. Oi, oi, oi. Sì, molto più forte di Antonio come segnale di riferimento per fare un corso. Vabbè, non siamo anche più vicini, come fanno le prove loro, io prove con te non le faccio, ti ho chiesto solo se anche il segnale va bene, ma io prove con te non le faccio, usa, io le prove le faccio fuori. Immaginati che poco fa c'era Alberto con un altro alberghiero, uno stava usando usando un'antenna, una frusta nera di macchina appoggiata al frigorifero dentro casa. Dentro casa mi arrivava segnale 1 radio 5. No, volevo dire segnale di radio, eri più forte di lui, non so cosa sta usando, Antonio cos'è? Il K cosa sta usando? Ma non è che ciò potrà attendere, infatti, di chissà che cosa, me. Poca potenza. No, ma la radio sta dicendo, Antonio, la radio di quel K non spinge molto con te, me, capito? Perché io la metto bassa, capito? Guarda, vado in un'ora, com'è? Vabbè, Antonio c'ha anche un vocione grosso. No, abbassa, Antonio, se no distorce. Rimetti come era prima. Però sto parlando con Claudio. La radio di Claudio, come intensità, è più forte di quella che sta usando tu. Tu non alzare troppo perché tu c'hai la voce grossa. Se no distorce. Lascia come era prima, Antonio. Aspetta. Va bene adesso. Tu cosa hai toccato? No, ho toccato la Mecchia, ho toccato, ma poco poco però me. Ma meglio adesso. Lascialo così, non toccarlo, che sennò poi magari modifichi troppo. Va bene così, Antonio. Chi c'è qua su questo canale? Io, tu, Gianfranco e Claudio. Chi c'è? Scusate, un messaggio Mario. Ci dovrebbe essere anche Fabrizio, però in quel rix che sta facendo cosa, riprendete voi che io se no non riesco a chiudere questa radio, però devo chiudere che ce l'ho aperta, devo chiudere e mettere le maniglie. Cappa, io voglio provare, vedi che ti arrivo attaccato, quando ti arrivo in quella zona, 2 minuti che cambio il coso, il PL. Eia, prova. Avete rinunciato per caso? No, ho detto soltanto chi era rimasto, ho detto Gianfranco, Antonio e Claudio, ho detto se c'era qualcuno che voleva entrare e basta, mi sa non c'è nessuno, per cui Gianfranco riprendete il mic e facci sognare, come dice Claudio. Eccomi qua, vediamo un po' com'è. Perché sta uscendo così Anto adesso? Ci sta mettendo bene? Capo, ho messo un altro radio, preferivo quella di prima, è decisamente. Il segnale è salito Antu 9.35, però la radio ha peggiorato, un po' satura, sporcata, dai, già si capisce, ma non è come prima. Mi devo ritirare l'altra radio, mi devo ritirare, e questa è un po' così, No, volevo capire da Claudio quanto arrivavo il segnale adesso. Allora, poco fa eri 9.10 con la Mantova, 9.15 con l'altra antenna, con la Smart Tech. Adesso sì, 9.15 con una e 9.20 con l'altra. Già va bene, dai. Non è... Purtroppo non è... Adesso vediamo, me ne controllendo perché facciamo un difetto quell'altro apparecchio. Scappa. La massa di varia, accendi. Sì, già va bene. Vabbè. Dimmi Gianfra. Te ne faccio ascoltare una dei tempi miei e dei tempi di Claudio, quando ci avevamo i pantaloncini corti. Che è Beniamino Gigli o Caruso? Claudio soffre. No, guarda questa roba. Roba che non finisce mai, Senti, stiamo te la sto mandando. California. Ma che è Mama and Papas, Gianfranco? No, questa non è California. questa è San Francisco. Sì, ma che la faceva? Mamma Zen Papa, se non mi ricordo. No, questa è Scott McKenzie. Sì, la conosco la canzone, però non, il cantante non me lo ricordavo. Va bene, dai. E cosa ci mette il jukebox? Quante è? Monete in euro o in lire? No, questa era monete ai nostri tempi, vero Cla? Mettevi il gettone e premevi il pulsante. Si conferma. Dai, lasciatemi chiudere questa radio, un secondo solo che riprendo subito, sennò un casino. È stanca questa radio. Piovendo sta, signori? Negativo. Allora, per me cacci un po' quarantena che va freddo. E poi lo stacco. E fai così, Antu, fai così. Ciao, Fra. Buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao Roberto e ciao anche a Franco, mi pare. Ciao Franco, ben sentito, c'è Gianfranco pure. Ciao Gianfranco, buonasera, mi ascoltate, sì? Benissimo, ciao, buonasera. Sei a bomba, sei qua. A bomba so. Guarda, qua siete tutti 9.35, quasi 9.35, solo Gianfranco è un po' di meno, per cui fatevi una cosa, un esame di coscienza. E forse la pioggia, Robè, siamo mentre il va. Io sono con due fatte. Già lo so, infatti, dico. Loro dovevano fare l'esame di coscienza. Loro sono con 2 kW, Antonio è 1 kW e mezzo Franco. Io sono con 10 watt da giudizio, la potenza del Galaxy, quindi non mi dica a me. Siete troppo furti, cacca, non va bene così in città, faccio uno segnale massimo 9, mettetevi limitatori come le macchine nuove che non puoi andare più di 120, tu ti metti il limitatore della potenza, quando io vi do i riferimenti a 9 va bene. Ma loro già hanno un lineare attaccato, non ne ho, quindi se ti arrivo con lo stesso segnale che loro usano 200 watt uno e 200 altro, cosa ti posso fare? Io sto andando con la potenza del Galaxy, 10 watt. 15 modulati. E allora arrivano anche parte. Le stanno usando con le potenze. Prova a parlare Gianfranco. Sì, sentivi sicuramente qualche cosa, perché ho trovato quella che dicevi tu, Robè, i mamas e papas. Sì, no, ti ho sentito basso di radio, cosa è successo? Forse non eri indirizzato sul microfono. Con le mamas e papas si chiama, un titolo un po' lungo, non me la metto più, comunque la conosco bene, dai. California Dream. California Dream, che poi hanno fatto un'altra, ne hanno fatto bella, famosa, adesso vabbè, lasciamo perdere, dai. Se no mi vengono i ricordi di quando eri giovane. Io te l'ho detto poco fa, cos'è California, tu non mi manco rifugio, la canzone. No, quella di prima era San Francisco, quella che dici tu è California, c'è tutta un'altra cosa, è questa, va, mando un pezzo, vediamo un po'. Chicchiccia, chicchiccia. Questa qua è quella che dici tu, Claudio. Questa si cominciava forte. Ciao Fra, buonasera, comunque ben ascoltato. Ah, dai, io vi saluto, ce la risentiamo alle prossime. Ciao ciao! Avete parlato in due, vai Antu. Ah, io ho detto vi saluto e ce la risentiamo alle prossime. Va bene Anto, dai, ci sentiamo, alle prossime, buon tutto, vai Gianfranco, poi Franco e poi Claudio per i saluti. Ciao Antonio, alle prossime, buona cantata, dato che stai andando a cantare, riprendi Franco. Buonasera, dai, riprendo io. Ciao Antonio, buon cuoretti, buon tutto, e ce la riascolta alle prossime, vai Cla, 5925 è qua, Cla, stai arrivando. Sì, vabbè, sto usando l'altra antenna, ciao Anto, buona cantata, buon tutto, alle prossime, vai. Ciao, ciao. Claudio ha detto una cosa, no, volevo dire però in effetti è così, era il tempo dei figli dei fiori. Ma stiamo a vomitare, non è educata di culo, sono i figli dei fiori. Oi, oi. Roberto ancora c'è il pannolini. Allora vai al mais tu, Claudio. Al mais, al legume, allo scoglio lungo, e quella era la discoteca Portos. Ne ho girato pure io, dai, io ce l'avevo anche una piccola discoteca, ne è passato tutto usato, è passato. Parliamo ragazzo, dai, da quando avevo 16-17 anni l'abbiamo tenuta, sino a quando ne avevo 22-21, dai, più o meno quell'età lì, ne è passato di tutto, di più, infatti ogni tanto trovo gente, ma tu eri quello che aveva la discoteca, e ho fatto sì sì, discoteca parliamo di a livello domestico, non parliamo di a livello professionale, però c'è stato un periodo, abbiamo fatto pure i biglietti, siamo tutti qualche soddisfazione, e ti posso dire, nel nostro piccolo avevamo schiacciato un po' di gente, quando ancora le discoteche non c'erano, dovevi andare nei paesi a prendere, se volevi ballare. No, beh, non ce l'avevamo il portatore, cioè qui noi avevamo anche la saletta dove ci riunivamo, cioè, e ci faceva di tutto e di più. Dai, un attimino, fatemi mettere queste maniglie a casa al Galaxy, se no arrivo Gubelli, arrivo subito. E gatti su che femminile, non deve andare 6-2, 6 mezz'ora, quanto ci vuole a mettere due maniche? Io vabbè, ma stavo mettendo il coperchio, scusi, adesso sto mettendo le maniche, le sto regolando. Ok, fissala bene, sennò te ne cade sui piedi quando lo tiri su. Franco, a te il mic. Questo lo riprendo io. E allora, Robè, come è andato il Natale? Bene. Io sono dal 24 notte mangiando abbondantemente, 25 idem e 26 lo stesso. Però oggi è finito, buh, infatti ho detto, basta, queste feste mi hanno fatto prendere un pochettino di cose esagerate all'organismo. È un po' di dieta, no, oggi a dieta io, insalata e una fettina e basta. Già abbiamo mangiato abbondantemente, di tutto e di più. Adesso in questi giorni sono al 31, adesso il 31 bisogna vedere cosa fate, si organizzano qualcosa, vediamo un po', se no ce ne rimaniamo a casa, tranquilli e sereni. Ok, di nuovo a Gianfranco il mic, Gianfranco DJ, chissà che musica sta cercando adesso, vediamo se è rientrato Gianfranco, se no fra prendi tu. E questo è la riprendo io, sicuramente Gianfranco sta facendo cosa. No, sto seguendo queste le lezioni nel computer, adesso vengo, già finito. E falle, quelle che c'è quel tipo, quello che è andato a Luca, quello che c'è quel tipo di Genova, quello lì. Grazie di positivo. Allora, quello seguilo bene, non sempre tutta intera, ma ti fai 15 minuti, 20 minuti e ti fermi. Poi dopo, cioè, tra un'oretta, altri 15, così riesci a seguirlo bene, attentamente, ti posso dire, è veramente spiegato bene in modo elementare e comprensibile. Poi le normative, inizia dalle normative, che secondo me bisogna partire dalle normative, che sono quelle che riesci a memorizzare meglio, e poi parte dalla lezione 1, ed è veramente fatto bene, molto molto chiaro e comprensibile. Infatti sto facendo così, è quel sito che mi ha mandato tu, mi pare, cioè l'hai mandato a Luca e Luca l'ha mandato a me, quel sito lì è. Sì, sì, sì, ce ne sono tante, guarda, su internet trovi decine, però quello è più efficace di tutto, che poi ti fa anche la discussione, ti fa i disegni, non è di quelli molto troppo schematici, nel senso che ti fanno vedere una cosa e tu devi capirla la prima, questo invece te lo dice in modo con esempi molto elementari, ed è piacevole per quello, se ti metti un po' di impegno, ma come ho fatto io, a livello così di divertimento, 10 minuti adesso, 10 minuti dopo, mezz'ora dopo, e riesci a imparare senza assidarti, quelli che stanno ore e ore, si fanno due o tre lezioni, così in un mese finiscono, no, così no, se no non comprendi nulla e ti esce il fumo. Ma infatti io lo seguo, faccio due ore al giorno, un'ora al giorno, capito? Adesso c'ero già un'ora e mezzo, ho seguito tutto questo discorso dell'elettronica, resiste, poi ti spiega tutto sulla lavagna, capito? Ti fa il calcolo, ti fa tutto, molto bravo questo qua, alla grande. E beh, piano piano, Roberto, sono andato giù a Brescia io, anche all'anno che viene, a Puglia. Sì, tanto dovrebbe essere a maggio, se c'è il numero minimo di cosa, di elementi, se no dovrei farla a novembre. Sì, era una futura. Non mi interessa, ma devo prendere, sto seguendo perché me la voglio prendere, ho le balle piene di questa cosa. Sono andato due volte, gatto, per due volte mi hanno preparato. Sì, ci vuole anche un po' di fortuna. Preparazione, però il problema, tu magari tutto quello che hai studiato lo sai, e poi ti fai una domanda che nell'argomento non c'è, cioè c'entra con l'argomento, però nelle tue domande non c'è, e magari ti mettono in difficoltà. Non è, no, molte volte può essere una domanda balorda e ti rovina. Lo so, magari ti capita il compito facile, ti capita quello di difficile, ma qua adesso è a domande, cioè a discussione, non è più a domande,